Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La prima volta che ha aperto gli occhi, io ero lì con lei. Io sono Gioia. Riley. Non è un fagottino di gioia. Era incredibile. Oh, per 33 secondi. Io sono tristezza. Oh, ciao. Posso solo... voglio rimediare. Il quartier generale si fece più affollato. Attenzione, c'è un odore sospetto. Lei è disgusto. Evita che Riley venga avvelenata. Broccoli! Gli occhi! Tu avrai coiato questa! Lui è rabbia. Wow, curva comica! Lui è paura. È molto bravo a tenere Riley al sicuro. No. Per fortuna ho i figli grandi ormai. Pensa cosa sarà sotto Natale. Tutti vorranno: mi dai gioia? Mamma, voglio tristezza, ti prego, voglio paura. Una cosa terribile. Perché questo film di Conway sia un capolavoro? Mi ha annoiato tantissimo. Ma guarda, Sansone, questa è la voce di Sansone. Sì, buongiorno a tutti. Il film si presenta con una Inside Out, è il film appunto della Pixar che racconta a modo suo, in maniera variopinta, la vita interiore. Era meglio Toy Story mille volte. Sì, in qualche modo, però qui si vola più alto, si cerca di volare più alto e probabilmente si rimane nel guado di un film che in realtà non è per bambini, perché è molto complesso nella sua rappresentazione della vita interiore, e perché la vita interiore appunto i bambini non sanno di averla, come diceva Stirner, nell'unico nella sua proprietà, si va da una parte all'altra da bambini. Infatti era pieno di bimbi minchi al cinema, si annoiavano tutti. Mamma, che è? Non capivano niente, non sapevano se ridere, se piangere. Bimbi minchi, se non sbaglio, sono già quelli più grandi che possono farsi le foto allo specchio con la bocca a cuore, se non vado errato. Ma perché ha fatto questo film della Pixar che descrive i moti del cervello di una bambina dalla nascita alle turbe adolescenziali? Zuccherosissimo, una vita bellissima, stupenda, l'unica uscita dalla retta via, che lei un giorno prova a scappare di casa, arriva fino all'autobus e poi scende. Pensa te, con quello che oggi fanno le ragazzine da 9 a 15 anni, capito? Però in tutto questo, dentro il suo cervellino, ci sono queste 5 emozioni di cui prevale la gioia. Ma ti sembra normale che se la gioia prevalere come emozione? Sono le 5 emozioni primarie. Sì, ma la gioia quando mai ha prevalso nella vita di una persona? Ma appunto è ottimisticamente post-disneyano come film, no? Deve essere consolatorio, non ci devono essere, tutti i conflitti devono essere annichiliti poi in questo enorme finale abbraccio familiare che tutto risolve e tutto appiana. Vince la famiglia naturale, tradizionale. Sì, tutto risolve in questo. Il papà era solo un po' indaffarato, che doveva lavorare tanto, poverino, però alla fine riacquista il suo ruolo. Era un po' brusco, poi si passa dall'idillio campestre del Minnesota a San Francisco, che è comunque questa città, quindi è lì il primo e unico trauma che viene raccontato in questa vita interiore della bambina. Ci ricorda Intonti che il tema è il rapporto fra cervello e emozioni, è il tema del film di cartone animato della Pixar, di cui sentiremo parlare da ora fino a tutto Natale, perché a Natale si regaleranno i gadget, c'è un merchandising terribile, tutti vorranno i pupazzetti, e noi ne parliamo questa mattina, ma tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog. Cronache meridiane. Che facciamo? Perché non funziona più? Lascia fare a me. Abbiamo un problema serio. Gioia saprebbe cosa fare. Dove siamo? Quella è la memoria a lungo termine. Possiamo sistemare la cosa. Torniamo al quartier generale. Potresti perderti. Pensa positivo. D'accordo. Sono sicura che ti perderai là. Ecco, invece sta andando già molto di moda rispetto alle giovani signore, quelle dei 35-45 anni, tristezza, perché è l'immagine rappresentata dalla depressione, dell'incomprensione, della poverina che si sente un pulcino nero in un mondo di cigni. Edoardo Boncinelli, buongiorno. Buongiorno. Uno dei più insigni genetisti italiani, e non soltanto, ha scritto vari libri, tra cui La vita della nostra mente, Quel che resta dell'anima, Homo Faber, 7 ingredienti della scienza. È andato a vedere il film Inside Out e quale conclusione ha tratto? Ma io l'ho visto in anteprima quando ancora non era in Italia, perché ne ho scritto un articolo sul Corriere, ora non l'ho rivisto. Però è sempre uguale comunque. L'ho trovato abbastanza interessante, abbastanza coraggioso, perché mette in scena le emozioni. Quello che mi stupisce francamente è com'è che tutta questa gente che parla sempre di emozioni e mai di ragione improvvisamente ora brontola perché nel film non si parla di ragione e di razionalità. Veramente gli italiani sono stranissimi. Ecco, c'è stato qualcuno che ha detto: questo film sembra quasi noi siamo in preda alle nostre emozioni, come in realtà normalmente lo siamo anche quando cerchiamo di ragionare. Dal punto di vista della costruzione, la ricostruzione scientifica dei meccanismi della mente, del pensiero, dell'esperienza, lo trova corretto come ricostruzione? Ma guarda, è un cartone animato in cui i valori spettacolari vengono in primo piano. Non è totalmente corretto, ma io non direi che è sbagliato, anche perché parla di cose, appunto, un certo numero di emozioni selezionate di cui non parla nessuno, perché delle emozioni si parla come di cose ineffabili e quindi non studiabili. Quindi in questo caso sono delle emozioni che condizionano, comunque perlomeno in qualche maniera sono tutte finalizzate alla nostra conservazione, perché anche la paura serve perché noi ci accorgiamo del pericolo, anche la tristezza serve perché gli altri si accorgano che noi stiamo soffrendo, anche l'ira serve per salvaguardarci, anche il disgusto serve per impedire che il mondo ci avveleni, quindi sono emozioni funzionali. Non siamo mai però in questo film in preda delle emozioni, non siamo mai schiavi delle emozioni, l'emozione non è mai per noi deleteria fino in fondo. Questo forse è un aspetto ottimistico che non appartiene alla concretezza della vita umana, Boncinelli. Ma noi non siamo schiavi delle emozioni, noi siamo sballottati in un certo senso dalle emozioni, come diceva Platone, che noi siamo marionette con i fili tirati dalle emozioni. Noi facciamo qualsiasi cosa della nostra giornata barcamenandoci tra le emozioni, senza che ce ne sia in genere una prevalente, a meno che uno non sia criticamente depresso. Anche la tristezza è una bella figura nel film, perché fa vedere che anche l'elemento tristezza è utile per comportarsi bene. È una visione, come dire, molto biologica del ruolo delle emozioni, e quindi in Italia immagino sarà vista male, perché della biologia nessuno ne parla bene. Beh certo, non appare Dio in tutto questo, non appare l'anima, non appare nemmeno la psicanalisi, sembra completamente dimenticata. La sessualità non esiste. Poi si arriva all'adolescenza, che è un momento in cui in realtà è importante, fondamentale nella formazione. La psicanalisi non è mai esistita, se non nell'amante. Questa è una grande notizia, però strano che in questo film non l'abbiano, oppure è un segno dei tempi? È un segno dei tempi, perché solo nei paesi latini si continua ancora a parlare di psicanalisi. In realtà nel mondo anglosassone è completamente tramontato e si parla di neuroscienze. È sullo stesso piano realmente il valore e l'importanza gerarchica delle cinque emozioni? Perché lì la gioia sembra la più fighetta, la più carina, la più divertente, ma in realtà sono tutti alla stessa console, hanno tutti la stessa possibilità di manovra sul quotidiano della bambina. Ma in realtà tutte queste costruzioni sono basate sull'opera di un psicologo fotografo che ha fotografato migliaia di esseri umani in preda a questa o quella emozione, e ha deciso che le fondamentali sono sei. E non è una teoria proprio neuroscientifica, è una teoria che ha preso molto piede, tra l'altro ha dato luogo alla serie televisiva di quel signore che capiva tutto dalle parole di quello che diceva la gente. È una cosa che ha avuto una certa notorietà negli Stati Uniti, poca qua, quindi le emozioni di cui si parla nel film sono le emozioni più importanti, più universali, più forti, ma le emozioni ce ne saranno 20-30. Se ci fosse una grossa lacuna in questo film, proprio da un punto di vista scientifico, quale sarebbe secondo lei? Se dovesse proprio fare un appunto, ci è piaciuto, è divertente, è chiaro, un bel filmetto, ma dal punto di vista dello scienziato, dice, ma cosa manca? Avete dimenticato un passaggio fondamentale. Quale potrebbe essere? Ma forse tutto sommato una certa dialettica tra le emozioni e i ricordi, quindi attraverso la coscienza e la razionalità forse ci vorrebbero, però ripeto, è un film per bambini che parla di una bambina, quindi vale più la tempesta che non la calma. Abbiamo un'erezione di 45 gradi. Vogliamo tentare la penetrazione? Pronti per penetrazione. Sembra che ci siamo. Voi sapete com'è là fuori? È come ci hanno detto al corso, è un ovulo. Ho paura, non voglio uscire. Ma se è per questo che siamo stati addestrati. Sì, ma chissà che cosa troveremo là fuori. Hai visto i plastici al corso, no? Sì, ma si sentono strane cose, sapete? Come queste pillole che prendono le donne o che i nostri interi contingenti si schiacciano con la testa contro un muro di gomma. Ah, sciocchezze. Giuseppe Sansonna, proprio il segno del tempo che è passato nel rendere metafore di alcuni nostri processi. Cos'è questo? Questo è tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere, di Woody Allen, in cui Woody Allen incarna lo spermatozoo timoroso di uscire. Anche qui c'è la soggettiva di una donna che sta baciando un uomo e si vede la console interna di quest'uomo alle prese con un'erezione di 45 gradi e quindi la potenziale fuoriuscita di questi piccoli spermatozoi che parlano e hanno una coscienza, hanno una preoccupazione sul loro futuro. Ma questo era un film adulto per adulti, con lo sguardo di Woody Allen, che se vogliamo poi ritroviamo nei Simpson, di quando Homer dialoga col proprio cervello, no? E appunto c'è questo, lì c'è il conflitto dialettico di cui parlava Boncinelli, insomma, l'impossibilità, lo stomaco che prevale, ecco, ci sono altre pulsioni. Sul film in questione della Pixar io parlerei un po' anche del discorso della tristezza. La tristezza, malinconia latente dei momenti più felici, diceva Sergio Caputo di Sabato Italiano, cioè contamina anche i ricordi allegri, e quindi questo è forse... Infatti lei quello che tocca, le palline, la memoria è rappresentata come un grande pallottoliere, ogni pallina ha il suo colore legata all'emozione che la contamina, che la genera. Tristezza, che questo personaggio che piace tanto alle signore e signorine, che lo trovo orrendo, capito? Tocca tutto con le sue manacce, porta sfiga, le palline degli altri diventano tutte azzurre, quindi diventano tutte tristi. Dove passa, diciamo, semina un alone di sfiga. Ecco, però la sua funzione nel film è quella di, essendoci, di creare una comprensione attorno a Riley, cioè alla bimba che ha la tristezza, la persona che vive di tristezza. Poi la funzione è quella di poter creare compassione da parte degli altri, o quantomeno empatia. Non Beh, c'è... terribile quelle cose, la gente per farsi compatire ti racconta le sue disgrazie. E questa è la vaga sensazione che un po' emerge, anche un po' sfumata da questo. Non c'è il discorso sulla caducità del tempo, c'è la malinconia dei ricordi. Ecco, quello è bandito, che magari in una dinamica come questa della coscienza, dell'interiorità... Malinconia saturnina, qualcosa di eroico, qualcosa che è stato scaturigine di poesia, di drammaturgia, di arte. Questa niente, è una povera... cozza, rompiscatole, ecco, che sta lì e deve intristire tutti perché nessuno la capisce. Sì, tra le immagini con la tisana invernale, insomma, con questo maglione a girocollo, con un gattino vicino, sempre che lo accarezza. A postare foto di gattini su Facebook. Ora basta! Non ho sifili, ti respira! Ah! C'è sempre un modo per cambiare le cose, per ritrovare l'allegria. Sono pessima. Oh, non lo sei. È fastidioso. Ne riparleremo, va bene? Non siamo morti, lo considero un successo senza paragoni. Chi è la festeggiata? Oh! Oh! Reggiti. Oh, vorrei che Gioia fosse qui. Ah! Cervello ghiacciato! Hai notato una contaminazione? Bisogna avere un po' di anni. L'unico personaggio che piaceva ai bambini, perché lo riconoscevano come il tipico personaggio scemo dei cartoni animati, è l'elefantino Bing Bong, che è l'amico immaginario che si muove lì nel cervello, poi alla fine anche lui, non lo dico, ma non voglio fare spoiler, però ha un esito eroico. È l'elefante rosa di Fantasia. Certo, certo. No, scusami, l'elefante rosa del sogno di Dumbo. Di Dumbo, del sogno alcolico, dell'ebbrezza. Sì, Dumbo, nel momento in cui si alcolizza e quindi diventa grande, diventa uomo, sogna gli elefanti rosa. Sì, se vogliamo, è questa la sua palingenesi. E sì, è uguale, l'elefante rosa. No, ma è vero. Quanti voci ne sono di elefanti rosa? Che cantano in coro e appaiono, sì, come un'immensa allucinazione. Mi ricordo anche il viaggio allucinante di Fleischer. Ti ricordi quei viaggi dei film anni 60 nel corpo umano, di tanta cinematografia? Però lì era fantascienza, era una dimensione adulta. Ripeto, l'ambiguità di questo film è che è molto complicato da seguire, però racconta una vita bambina, pacificata, consolatoria. C'è anche il viaggio all'interno del corpo umano, c'erano prima le videocassette, poi DVD, c'era il vecchio con la barba, con i globuli bianchi, i globuli rossi. Siamo fatti così. I villi intestinati, lo ricordi? Siamo fatti così. C'era sempre un corpo umano di plastica da costruire, poi non finivi mai, ti mancava sempre qualche pezzo, rimaneva sempre, ne so, all'apparato muscolare. Io non sono mai andato più là dello scheletro. A tra un istante. tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Melog. Cronache meridiane. Primo giorno di scuola, molto molto eccitante. Ieri a tarda notte ho studiato un nuovo piano. Eccolo qui. Paura! Mi serve una lista di tutto quello che potrebbe andare storto nel primo giorno di scuola. Ci avevo già pensato. Come si sillaba meteorite? Disgusto. Assicurati che Riley si faccia notare, ma anche che si integri. Quando avrò finito, Riley sarà così fantastica che le altre guardandosi allo specchio vomiteranno. Gioia! Sì, Gioia! Tu alla console farai sì che Riley sia felice tutto il giorno. Sai che mi piace il tuo vestito, è adorabile. Oh, questo straccetto, ti ringrazio, adoro come svolazza. Treno dei pensieri in perfetto orario. Rabbia, scarica i sogni ad occhi aperti. Ne ho ordinati in più nel caso. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Scrittrice di genere fantasy, saggista, psicoterapeuta. Gli ultimi romanzi da lei pubblicati sono dedicati alla saga di Anya. Anya, il regno di tigri bianche, giunti 2015. Anya, il cavaliere della luce, giunti 2015. Allora, Silvana De Mari è un nostro ospite tradizionale. Parla di fantasy, ma parla molto anche di emozioni, della struttura del cervello. Questo film sembra fatto apposta per dare a lei degli spunti. È andato a vederla appositamente perché gli abbiamo chiesto, vorrei sapere cosa ne pensi. Sì, sì, sono andata a vederla perché me l'avete chiesto voi. Per fortuna mi hanno fatto lo sconto anziani e me la sono cavata con 4,5 euro. E dato che dovevo parlarne qui, sono rimasta a vederlo fino alla fine. Se no te ne saresti andata prima. No, prima non ci sono andata perché no, te ne saresti senso. Andata prima della fine, volevo dire. Sì, me ne sarei andata prima, allora, della sconcordi fine. Con me che è un film, a me ha fatto proprio, mi sono addormentato più volte, non è piaciuto per niente, ma sono uno dei pochi che lo dice, bisogna no, tutti no, dire che è un capolavoro. È molto peggio, non è solo un'infame boiata, è molto peggio. Io non ero andata a vederlo perché avevo dedotto dal trailer e da altre informazioni che erano passate che doveva essere un qualcosa che non combaciava con le mie strutture cognitive ed estetiche, cioè in parole più povere appunto l'invereconda boiata. Me lo sono guardato tutto con questa versione inquietante folle del cervello. Dentro, buttato qui dentro, ci sono due o tre informazioni in neuroscienze che sono anche sensate, esattamente come dentro la ricerca di Nemo c'erano un paio di informazioni su come campano i pesci anche sensate, per esempio il fatto che il pesciolino deve strusciarsi sull'anemone perché altrimenti diventa tossico. Per il resto questa roba c'entra col cervello umano come la ricerca di Nemo c'entrava con la vita dei pesci. Ma non è questo, il punto è che è eticamente mostruoso. A parte il fatto che le emozioni sono tutte sullo stesso piano, purtroppo le emozioni negative sono molto più potenti di quelle positive perché sono emozioni di difesa. Oh, brava, quello che dico io, ma ti pare, quando mai la gioia è stata la guida della nostra vita? Ma quando mai? La collera è l'unica emozione che riesce a levarci dalla paralisi, che annienta la vergogna, ma soprattutto la collera è l'unica emozione che annienta la paura e diminuisce addirittura la percezione del dolore. Le emozioni negative sono di difesa, quindi sono le più facili da contagiare, sono le più facili da provare, uno deve fare uno sforzo per andare sul positivo, ma la tragedia non è solo che manca completamente la ragione, cosa gravissima, rappresentata con un trenino sbilenco che non si sa cosa cacchio rappresenti e che ogni tanto cade nel baratro, non solo, manca tutto il legame mediante la nostra potenza di esseri umani, non siamo dei turaccioli in balia delle nostre emozioni, di controllare dal punto di vista cognitivo le emozioni. Non è facilissimo per un bambino, siamo d'accordo, ma i pensieri e le emozioni sono continuamente correlate, altrimenti che senso avrebbe tutto? Manca l'etica. L'etica è una baracchetta insieme a tutti gli altri che dipende dai ricordi. Verissimo che l'emozione attuale dà il colore al passato, e se io adesso sono triste del giorno in cui mi sono sposata mi ricordo che mi facevano male le scarpe, se invece sono allegra del giorno in cui mi sono sposata ricordo quanto era bello il vestito. Quella roba lì è vera, ma manca l'etica, non c'è una struttura cognitiva. Questa bambina in balia delle sue emozioni a un certo punto scappa di casa, che in realtà è una cosa grave perché lei non è una cosa così, così banale. In primo luogo mette a rischio la sua incolumità, in secondo luogo mette a rischio i genitori, ma scappa di casa perché ha 11 anni, se ne avesse 16 imbraccerebbe il fucile e andrebbe a scuola a sparare a 8 persone. Però, Silvana, anche la motivazione della fuga vuol tornare al paesello da dove viene, che non mi sembra sembra fra i motivi principi per cui una ragazza adolescente si ribella alla famiglia. Vuol tornare al paesello perché non si è inserita nella grande città. Ma c'era bisogno di scappare di casa. Ma cioè basta una sola roba dove tu ti scorni, siccome la tua vita è sempre stata questa roba, sì, no, che eccetera. Basta una roba che tu ti scorni e crolli. Per inciso, io qui mi posso identificare. Perché io a 11 anni di traslochi ne avevo fatti 5 e prima dei 16 ne avevo fatti altri 3. Inoltre il trasloco che ho fatto da 11enne, io sono sbarcata a Palma a 9 anni, non avevo mia madre vicino perché mia madre non aveva avuto il trasferimento, quindi era rimasta a lavorare e compariva il sabato e la domenica, in una casa di 30 metri quadrati per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, senza riscaldamento c'era meno 20 sotto zero. Per fortuna non c'erano gli psicologi. Per fortuna negli anni 50 e negli anni 60 tutto questo non c'era, perché questo film mi porta a rispondere alla domanda che nessuno mi ha fatto, me la faccio da me: perché diavolo negli ultimi 60 anni i disturbi fobici, la depressione, i disturbi alimentari sono aumentati del 1200%? Perché noi abbiamo annientato il libero arbitrio. Questo film è l'ennesima prova dell'annientamento dell'antiumanesimo in cui siamo in mano da 60 anni del libero arbitrio. A seconda di quello che ti è successo tu provi un'emozione e che cacchio, e se provi quell'emozione sì, lì, tu dove sei? In tutto questo cervello non si capisce dove siamo noi. Ma non si capisce dove siamo noi, non si capisce dov'è la coscienza. Questa rappresentazione del cervello che io ho trovato alla tenera età di 62 anni, mi hanno fatto appunto lo sconto anziani, inquietante, e c'erano delle scene che dico, ma cacchio, ma un bambino che guarda sta roba, spero che si spaventi ed esca, non resti a vedere tutta, fino alla fine spavoiata. Tra l'altro, le emozioni che la Disney ha sempre contagiato erano emozioni apocalittiche. Non c'era il trasloco, c'era l'assassinio della mamma di Bambi, certo, la morte di mamma tua per cui ti davano la matrigna, e Dumbo, che è il bambino sfottuto in quanto nato deforme, porca miseria, quando alimentano la mamma in manicomio, quelle sì che erano emozioni. Adesso la rappresentazione di una umanità talmente fragile nel postmoderno che i tuoi traslocano e la tua mente si spalma. Oh, vedo che sei d'accordo, Silvana. Mi sembra banalmente assurdo che il motivo di una fuga, che in fondo è un gesto epico, una bambina è sempre stata in casa, per una stupidaggia come andare, poi dove va, da chi, non si sa manco, esatto, bene dove, non ha una meta. È una roba che fa un terenne, un undicenne dovrebbe rendersi conto come faccio. Oltretutto ruba la carta di credito di mamma. Bambini, ma quella roba lì è una cosa grave. Certo, a 11 anni si limita a rubare la carta di credito, a 16 imbraccerà il fucile e ammazzerà 4 persone. Oddio, ci fa il biglietto dell'autobus. Ci si fosse comprata un chilo di cocaina, sì, ma ci fa il biglietto dell'autobus alla fine. Non è che ci fa il biglietto dell'auto. Dove vuoi andare? Hai 11 anni, uno deve avere l'intelligenza di capire: casa mia non c'è più perché l'abbiamo venduta. Vado dall'amica, le dico brutta stolta, accomiti, mi hai già sostituito, oltretutto la California e il Minnesota sono distanziati, parto da qui, vado a Stoccolma. È abbastanza assurdo anche che in fondo questi genitori sono sì avvolgenti, affettuosi e tutto, ma hanno un rapporto di perenne infantilismo in questa bambina. Alla fine la sua crescita, la sua normale crescita, la caduta, diciamo, di alcuni punti fermi della sua fanciullezza, come l'elefantino Bing Bong, il suo amico immaginario, che alla fine poverino fa una brutta fine e tutto. Mi sembra un po' pochino per crescere, mi sembra, sinceramente. Sì, ma anche perché non ci sono linee etiche. La linea etica non esiste. Adesso non vorrei farla scendere dall'alto, cambio argomento, adesso so benissimo tutti incazzati che sta roba qui, i dati statistici veri ci dicono che la depressione anche tra gli adolescenti, adesso è diventato un castigo di Dio, cioè, è bassissima nelle comunità fortemente religiose, gli Amish, gli ebrei ashkenaziti, Haredim, dove ci sono dei valori fortissimi. Sì, ma è meglio essere depressi che essere Amish, però scusami se va, dal mio punto di vista. Preferisco essere un po' depresso che dove sta lì col barbone e il camicione. Cioè, ognuno fa scelte nella vita. Ognuno fa scelte, ma in questa cosa i genitori non danno linee di struttura. La struttura di questa famiglia è che le cose funzionano solo se va sempre tutto bene. È sufficiente che tu perdi un incontro di hockey, che papà non venga a vederti assaggio di danza o qualcosa del genere, che la tua mente si spampana. La mente di questa bambina, per un trauma infinitesimale, cacchio, ti hanno mandato a casa, sei in Siria, stai scappando mentre luce, cioè posso capire, c'è avuto il trauma. Il trauma è un trasloco, ma la mente di questa bambina non è che va in tristezza, smette di funzionare. si ferma, va in tilt, va in tilt. Beh, è terribile, perché è come un meccanismo, come uno smartphone che improvvisamente gli si guasta la batteria, devi rimetterci la batteria. Giuseppe Sansonna. No, parlando di film d'antan in cui succedevano cose simili, cioè Incompreso, il padre non lo va, cioè comunque non si sente guardato e comunque va in tristezza, quindi già poteva accadere che si andasse un po' in crash a causa di queste, anche nella cinematografia del passato. Quello che, con cui concordo, non è che molto, si suicida Incompreso, no, no, fa un gioco cretino, si rompe il ramo e casca, no, però, peggio no, no, per lui. Certo, però c'è una tristezza, è di scemo, fondo. Ma non è perché quello che è vero, e sono molto d'accordo con Silvana, è che manca una sintesi dialettica appunto del pensiero che si, della bambina, manca la bambina che si rapporta alle sue emozioni nel film e che magari ne operi un po' una sintesi e quindi ci mostri il suo processo di crescita, che nel finale è molto sintetizzato. Sansonna, vogliamo prenderci in giro, è l'elettroencefalogramma piatto di un bimbo minchia. Il bimbo minchia è una caratteristica dell'umanità che abbraccia persone che vanno dai 9 ai 70 anni, sì, ormai oggi normalmente. La bimbo minchiaggine finalmente ha il suo cartone animato, noi abbiamo avuto altre cose, oggi hanno il loro cartone animato, staremo tutti qua sotto l'albero di Natale col pupazzetto della rompiscatole triste porta sfiga menagrama o della bambina buona, direi. Le bambine, ogni volta che passerà per la loro testolina illuminata un pensiero di qualunque tipo, daranno colpa alla signorina blu, all'ometto rosso, all'altro ometto stupido e via dicendo. Non, loro non ci saranno più. In questo do ragione a Silvana De Mari. Continuiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi abitiamo in una casetta che sta proprio dentro le tue orecchie. Se vuoi entrare dentro devi ripetere questa frase: cammellini della memoria che entrano ed escono dalle orecchie. Cammellini. Il console accettò di andare a trovare i cammellini. L'indomani si incamminò verso una radura dove lo aspettavano i cammellini. Il console non ci stette a pensare due ore, pronunciò: cammellini della memoria che entrano e escono dalle orecchie. Questo è un colpo gobbo di Fabrizio Intonti. Ma ha schiaffato un mio ricordo. Questa è una mia pallina della memoria, che ancora, grazie a Dio, non l'ha toccata la tristezza, quindi non è diventata blu. La tristezza, quando toccava le palle, diventavano blu. E questo è normale, accade anche nella vita. Sono i cammellini della memoria che entrano e escono dalle orecchie. Fu racconto di Filippo Martinez, un mio amico morto all'età di 50 anni. Postumo ha scritto questo racconto, che è stato ripubblicato proprio in questi giorni da Bompiani in un libro. I cammellini della memoria sono qualcosa di tragico, lo stesso meccanismo del film di cui stiamo parlando, però parla del momento dell'approssimarsi alla morte di un console che lentamente si accorge che prima di morire tutti i suoi ricordi stanno per essere portati via e gli passano in rassegna. E il meccanismo attraverso cui i ricordi scompaiono sono dei piccoli cammelli che gli entrano nelle orecchie e pacchetto dopo pacchetto li portano via la memoria. Quando non avrà più memoria sarà morto. La voce del bambino all'inizio era mio figlio Filippo, che oggi ha 20 anni, allora ne avrà avuti se no 5-6 anni, e lo usavo come bambino cavia in un'altra vita, in un'altra radio. Giuseppe Sansonna. Io credo che quello che manca di fondo, ripeto, in questo film è proprio la sintesi fra la ragione, appunto, la coscienza che si sta formando della bambina di Riley e le sue emozioni, cioè un rapporto dialettico da cui emerga il processo di crescita. E poi il discorso sulla tristezza: la tristezza conferisce caducità anche alle cose belle, è quello che le avvolge di malinconia, però questo non viene evidenziato nel film, cioè c'è semplicemente questo contatto che rende blu. Rende malinconici o tristi i ricordi. Ma sì, rende blu, perché Bye Bye Blues era la pillola contro la depressione che è andata di moda per tanti anni. Silvana De Mari, sei d'accordo? Sono d'accordo. In questo film manca la coscienza e quindi manca il libero arbitrio. Perché negli ultimi 60 anni la depressione è aumentata del 1200%? Perché ci hanno scippato il libero arbitrio. Non è colpa mia. E chi se l'è preso? Freud. Non è colpa mia. Che però non c'è in questo film, non c'è nulla di psicanalitico. No, siamo tutti nipoti. Il concetto è che è sempre colpa di qualcun altro. Quando c'è un crimine, il sangue della vittima è ancora per terra o l'acido sta ancora bruciando sulla faccia di qualcuno, tutti a spiegare che aveva questa emozione qui dentro, quindi non è stata colpa sua. Porca miseria, è colpa mia, tutto quello che faccio è colpa mia, mi assumo la responsabilità di tutte le mie azioni e mi assumo addirittura la responsabilità delle mie emozioni. Con molta calma, con molta difficoltà, ma ce la posso fare. In questo maledetto film manca la coscienza, manca il libero arbitrio. La bimba è infelice e fa la stupidaggine. Insisto, a 11 anni si limita a scappare di casa, a 16 imbraccerà il mitra e sparerà a 4 compagni. È la stessa cosa. Ma scusa, la tenera emozione gioia cosa farà in quel momento per evitarlo? La tenera emozione gioia sarà da qualche parte dispersa nel cervello, che ne so. Sarà con l'elefante a accoppiarsi nella zona più profonda del cervello. Tra l'altro, questa visione inquietante del cervello come di qualcosa di su cui noi non abbiamo potere. Un pezzo in cui siamo dispersi, siamo in balia delle nostre emozioni. Non è stata colpa mia, non ce la potevo fare. Io non ce la potevo fare a vederlo con quell'altro. Li ho ammazzati tutti e due, ok, va benissimo. Io non ce la potevo fare a sopportare questo. E ho messo una bomba e non è stata colpa mia. Il mondo è stato cattivo con me, mi ha reso molto frustrato. Ho messo una bomba davanti alla scuola. Dov'è il problema? È lo stesso meccanismo. È l'annientamento della coscienza, l'annientamento del libero arbitrio. Da brava, su, apri. Sembra una novità. È pericoloso? Che cos'è? Ok, attenzione, c'è un odore sospetto, gente. Un momento, che cos'è? Lei è disgusto. In pratica evita che Riley venga avvelenata. Fisicamente e socialmente. Non ha colori sgargianti o la forma di un dinosauro. Aspettate, sono broccoli! Oh. Lucky! Beh, ci siamo salvati la vita. Oh. Sì, non c'è di che. Riley, se non mangi la cena, non avrai neanche il dolce. Aspetta, ha detto che non possiamo avere il dolce? Lui arrabbia. Ci tiene molto che Riley non subisca ingiustizie. È così che la vuoi mettere, vecchio? Niente dolce? Oh, certo che mangeremo la cena. Non appena tu avrai guidato questa! Ehi, Riley, arriva un aeroplano. Oh, aeroplano, abbiamo un aeroplano, ragazzi. Adesso do pane per i suoi denti a Silvana De Mari. Certo, anche questo padre, il massimo dell'autorità e autorevolezza paterna, una sera dice vai a letto senza cena alla bambina e sembra in quel momento si scatena l'universo. Un poveretto sta sempre al telefono, totalmente succubo della madre, si vede benissimo che la mamma è la mamma anche del padre. Anche questo è un elemento secondario che però forse vale la pena di sottolineare. No, non è un elemento secondario, è un elemento primario. Perché un padre autorevole che abbia salvato la sua autorevolezza e che quindi abbia gli attributi per essere antipatico, ha anche l'autorevolezza di dirti la tua vita ha un valore. E la vita ha un valore anche se ti hanno bocciato, la tua vita ha un valore anche se hai perso il coso, la tua vita ha un valore anche se per il lavoro di papà è così, dobbiamo fare un trasloco. Il fatto di aver tolto autorevolezza al padre ed è messo la catastrofe messa in rilievo da un bel libro che si intitola Contro il papà, dell'unico giornalista che ha detto che questo film è una catastrofe perché si sono persi la ragione, che è Polito e ha ragione. Nel momento in cui mio padre è più forte di me, è anche uno che mi può proteggere. Se mio padre non è più forte di me, è un eterno parigrado con cui si discute, io non ho nessuno. Si fanno il gioco della scimmietta, tutte le mattine fanno l'imitazione del babbuino, sembra casa Fantozzi. Esatto, fanno l'imitazione del babbuino, che è una roba che va bene nel momento in cui ci stiamo giocando, ma nel momento in cui esco di casa ho bisogno di un padre che mi dica buona giornata figlia, e che io so che questo padre si irriterà, o aver sbagliato con qualche costruzione verbale, non importa, se io faccio la stupidaggine. Io non ho mai copiato a scuola, non perché avessi paura della maestra, ma perché avevo paura di mio padre che mi avrebbe detto porca miseria, sei intelligente, io i libri te li ho comprati, certo. Perché devi copiare, è come rubare. Infatti sei venuta su bene. Giuseppe Sansone, a confortare questa tesi, la paura fra le emozioni è un lombrico maschio livido timoroso, mentre la gioia e il disgusto sono leader. La paura è la cosa più schifosa, quando in realtà è la nostra salvaguardia verso il mondo. Se non abbiamo paura non prendiamo le misure con il mondo. Grazie Silvana De Mari, grazie Giuseppe Sansonna. Mi dispiace tutti quelli che avevo deluso questa mattina, ma noi siamo nati cattivi e cattivi moriremo.